Per mezzo così. Ok. Bene, benvenuti, buonasera. Questa è la nostra ultima serata del 2007, poi ci ritroveremo in gennaio. È stato un anno bello intenso, ecco, lo concludiamo lunedì prossimo con la consegna del premio Claudio Augusta a circa 20, mi sembra, neolaureati che hanno consegnato nell'arco del 2007 una tesi di laurea di interesse locale alla biblioteca, verrà catalogata e messa a disposizione per la consultazione della ricerca. Ecco, io saluto, do il benvenuto anche ai nostri due relatori di questa sera, consigliere provinciale Mauro Minitti, giornalista Gabriele De Luca. Ecco, questo incontro fa parte della serie che abbiamo iniziato quest'autunno, incontri Alto Adige, incontri ravvicinati, andiamo a conoscere libri scritti sull'Alto Adige, sulla situazione particolare di questa terra, visti da occhi e ottiche completamente magari anche diverse, a volte simili, a volte lontane, distanti, però che ci forniscano, ecco, un'idea così multiforme. Ringrazio appunto i relatori, so che le bibliotecarie hanno preparato sempre una bibliografia da accompagnare anche agli argomenti che verranno trattati, per chi volesse poi approfondirli siamo a disposizione. Vi invito, ne approfitto sempre, c'è una piccola finestra, uno spot pubblicitario che facciamo, a ritrovarci il 7 di gennaio, che è un lunedì, per la presentazione del libro di Nikolaus Fischnaller, un non vedente della provincia di Bolzano, che racconta la sua esperienza e i suoi viaggi nell'Alto Adige, però da non vedente, ecco, quindi un'esperienza particolare. Poi il 14 gennaio sarà la volta di un giovane autore, Andrea Montali, ma vi faremo avere poi gli inviti e le informazioni del caso. A voi la parola, grazie. Grazie a lei. Partiamo. Non so se devo usare, uso il microfono oppure... Ma oppure... adesso è spento, anche senza, credo, come preferisci. Io ho una voce abbastanza... sono abituato a insegnare in classi, in classi rumorose, per cui posso... Devo tenere a bada gli allievi, generalmente tiro fuori la voce, per cui se adesso voi sarete indisciplinati io tirerò fuori, ma non penso ci sarà bisogno, insomma abbiamo in questi casi un po' di relax. Allora, stasera presentiamo un piccolo volume di Mario Minitti. Mario Minitti è Mauro. Cosa ho detto? Mario? Mario. No, Mauro. Mauro Minitti, che è noto. Io sono abituatissimo che tutti mi chiamano De Luca e poi mi affibbiano anche nomi propri. Generalmente non lo faccio mai proprio perché sono sofferente di questa cosa e invece sono... No, comunque, Mauro Minitti è noto alla cittadinanza locale perché è un esponente... di spicco del partito Alleanza Nazionale, è presente da diverse legislature all'interno del Consiglio Provinciale e quindi anche del Consiglio Regionale, dove leggo, insomma, ricopre anche ruoli di rappresentante, sì, il capogruppo appunto di Alleanza Nazionale. Altre note biografiche, che per esempio è nato a Foligno ed ha alle spalle una carriera, diciamo, nei movimenti giovanili e poi in tutte le varie configurazioni del partito di Alleanza Nazionale, magari le presenterà lui quando affronteremo appunto il tema, diciamo, della biografia. Questo libro ha anche tratti biografici. Io invece passo subito ad una brevissima presentazione del libro e poi abbiamo pensato di articolare la serata con delle domande, seguiranno delle brevi risposte, tutto dovrebbe, diciamo, svolgersi in un tempo circoscritto in modo poi da dare anche a voi la possibilità di intervenire. Allora, questo libro è, come ho suggerito già un testo che fonde due stili diversi. Il primo appunto è autobiografico, quindi si parla della propria esperienza politica, si parla dell'esperienza politica in prima persona, si ricapitolano le fasi che hanno portato a, poi a, all'evoluzione più recente, e quindi è interessante anche per capire come è avvenuta, diciamo, la formazione politica di Minniti. Questo aspetto però, che è particolarmente evidente nella prima parte del libro, dopo sfuma e il libro diventa essenzialmente un libro, diciamo, teorico, in cui si cerca di rendere evidenti quelle che sono le strategie, la fisionomia di una destra che è in trasformazione, che quindi sta cercando, diciamo, un po' di mutare pelle rispetto alla destra come generalmente conosciuta, soprattutto in Alto Adige. Quindi la dimensione, diciamo, progettuale, che anche nel titolo è in forte evidenza. Qui si parla appunto di un progetto innovativo di cui la destra dovrebbe farsi portatrice, e questo progetto è articolato in modo molto, molto minuto in tutta una serie di capitoli che ruotano più o meno sempre intorno a questa domanda. Tant'è vero che uno dei titoli che poi non hai inserito, diciamo, una delle idee era la destra che vorrei, quindi questo aspetto progettuale è fortemente in evidenza. Io vorrei anche fare adesso, vorrei dire una breve cosa sul perché io ho accettato di presentare questo libro, così evitiamo anche poi una specie di outing a cui tengo, però. Valeria Trevisan prima mi ha definito giornalista, io non sono propriamente un giornalista, collaboro al Corriere dell'Alto Adige. La mia definizione professionale, quella che generalmente io amo mettere in risalto, è quella di insegnante e di traduttore. Faccio fondamentalmente questo. Non ho militanza politica esplicita, cioè non faccio parte di nessun partito, non sono iscritto a nessun partito, però ho un orientamento evidentemente che è palesemente, posso dire, liberal socialista, comunque di sinistra, e per quanto riguarda l'Alto Adige sono molto vicino all'impostazione dei Verdi, recentemente anche delle Bürgerlisten, comunque dei Verdi storici, diciamo. Mi sono formato, le mie conoscenze sull'Alto Adige sono cresciute leggendo Alexander Lange, quindi vengo, diciamo, da una tradizione che per certi versi è diversa, per certi versi è diversa, perché poi ho visto che leggendo il libro che ci sono anche dei punti di contatto che sono interessanti. Comunque, diciamo, formalmente è diversa. E la cosa che tengo a dire è questa: secondo me uno dei problemi maggiori che abbiamo in Alto Adige è quella della incomunicabilità tra vari settori dell'opinione pubblica. La più grossa incomunicabilità è quella, diciamo, etnica, tra il gruppo linguistico tedesco e il gruppo linguistico italiano, e anche il gruppo linguistico ladino, che sono, diciamo, si muovono su universi paralleli. Per cui quando io frequento molte manifestazioni culturali del gruppo linguistico tedesco, e lì sono generalmente completamente assenti gli italiani, si parla ovviamente in tedesco di temi che stanno a cuore ai tedeschi, con riferimenti che si svolgono tutti nel mondo tedesco, e sembra che gli italiani praticamente non esistono. Io poi non sono neanche di Bolzano, sono di Bressanone, dove questa cosa è ancora maggiormente evidente, perché la comunità di Bressanone, la comunità italiana, è molto esigua. Quando partecipo alle manifestazioni organizzate da partiti o associazioni italiane, si osserva il fenomeno opposto, ovvero mancano i tedeschi, sono quasi del tutto assenti, e i riferimenti principali, anche questi avvengono, diciamo, nel mondo, generalmente in un ambito italiano. anche se con minor forza, perché chiaramente la componente tedesca, essendo maggioritaria in Alto Adige, i conti, diciamo, con i tedeschi, gli italiani li fanno forse di più di quanto non accada viceversa. All'interno del gruppo linguistico italiano poi esistono anche ulteriori linee di frattura tra orientamenti politici diversi, e anche lì accade raramente che persone appartenenti a tradizioni oppure ispirazioni diverse effettivamente comunichino. Quindi ci si ritrova quasi sempre in conventicole di adepti, di persone che hanno più o meno la stessa visione delle cose, tutti si danno più o meno ragione, ma mancano, diciamo, momenti di fertile scambio, in cui anche avendo idee diverse si può parlare insieme e vedere se ci sono punti di contatto, o anche capire bene dove non sono i punti di contatto, perché anche questo è importante. Invece ci si ferma generalmente al pregiudizio, si inscatolano praticamente le persone, le idee dentro confezioni che poi molto spesso si hanno un contenuto diverso da quello che noi possiamo sospettare, e accade poco, diciamo, il dibattito è sempre molto langue, ecco. In questo senso, quando mi è stata offerta la possibilità di confrontarmi con un testo che altrimenti non avresti letto, altrimenti forse non avrei letto, allora ho detto invece è bene leggerlo, è bene capire finemente in cosa eventualmente io non sono d'accordo, e quindi ho accettato molto volentieri. Questo lo dico perché mi sembra importante dirlo, insomma. Allora, io passerei dunque direttamente a questa, guardiamo se funziona questo schema che ci siamo dati. La prima domanda che io ho, e anche così avete voi modo di conoscere meglio la persona, è quella relativa al tuo apprendistato, cioè tu sei nato a Foligno, sei nato in centro Italia, ti sei trasferito qua, penso giovanissimo. A 13 giorni. Beh, allora, rivendico la mia umbrietà. La tua umbratilità. A parte appunto la... Però anche tu non sei di Bressanone. No, io sono un emigrato, anzi un immigrato recente, perché sono qua solamente da 9 anni, e sono toscano. Allora, Merano 1977, mi sembra tu cominci il tuo percorso. Sì, prima permettimi di ringraziare te, Gabriele Di Luca, per aver accettato anche di farmi da sparring partner, si può dire, che trovo molto interessante proprio il fatto che ci sia questo confronto fra persone che non la pensano idealmente alla stessa maniera, se no rischiare di venire fuori la solita manfrina, sono tutti d'accordo, no, invece questo è interessantissimo. E ringrazio la dottoressa Trevisan per avermi dato modo di presentare questo lavoro, che nasce lo scorso anno, poi vedremo magari anche in che condizioni e in che contesto nasce. Sì, allora 1987, Merano, io avevo 13 anni, ero giunto in Alto Adige perché mio papà era ufficiale dell'esercito, chiamato a fare ordine pubblico in quegli anni delle bombe, primi anni 60. Quindi trasferiti lui come suo primo incarico di tenente a Dobbiaco, Bolzano, io nasco a Foligno per volere paterno e materno, di questo ne vado molto orgoglioso, a 13 giorni vengo a Bolzano ad abitare perché i miei già abitavano a Bolzano. Maturo all'interno della mia famiglia alcuni valori, soprattutto il valore del rispetto alla patria, della nazione, anche se devo mettere... papà e mamma non hanno mai, mamma la saluto, papà ormai non c'è più da tempo, non hanno mai parlato di politica all'interno della famiglia. Quando papà è morto io avevo 9 anni, quindi non ho avuto modo di apprendere dalla voce diretta magari alcuni valori. Succede che nel 77, 2 anni prima, si era verificato l'omicidio di un ragazzo a Milano, si chiamava Sergio Ranelli. Un omicidio che ci colpì. Sergio Ramelli apparteneva al Fronte della Gioventù, che era un'organizzazione della destra, del Movimento Sociale Italiano. Lo attendono sotto casa, viene sprangato da alcuni attivisti di sinistra e muore dopo 27 giorni di agonia a Milano. Questo fatto, io allora solo 11 anni, però ci colpì molto. Dico ci perché chi mi fece compagnia in quel maggio del 77 a varcare per la prima volta la soglia della sede storica di Merano, di Via Scilla, del Movimento Sociale Italiano, c'era anche mio fratello, che oggi li ho portati tutti. E quindi praticamente arriviamo a Merano in questa sede, dove io notai un po' di confusione anche ideologica, se vogliamo. Io per esempio cito nel mio libro, ero sempre stato convinto che la destra stessa dalla parte degli israeliani. Arrivo nella serie di Via Schiller e mi trovo invece un dipinto sul muro che ricorda la OLP, quindi capisco che non c'è solo un corso unico all'interno della gioventù di destra in quel periodo, così come oggi peraltro, no? Ma ci sono anche delle simpatie per la liberazione della Palestina. E si cresce in quegli anni all'insaputa di mia madre, che noi frequentavamo il partito, anzi mia madre la convincemmo dopo 3 anni di nostra attività a candidare come indipendente al Consiglio Comunale di Merano, come nell'MSI, e all'insaputa di mamma, perché alla fin fine mamma aveva già avuto molti dispiaceri nella sua vita, non ultimo appunto la perdita di papà, e quindi non volevamo io e Adolfo gravare ulteriormente questi pensieri che poteva avere, quindi non le dicemmo nulla. Quella sede però, quella sede di Via Schiller, per noi è diventata un po' la nostra seconda casa. Oggi quelle che sono gli uffici, no, dei partiti, allora erano i covi, soprattutto per quanto riguarda il nostro gruppo politico, no? Veniva considerato la sede dell'MSI il covo fascista. E noi facevamo i compiti, pochi, ma facevamo i compiti magari lì, preparavamo i pomeriggi, si preparavano i manifesti scritti a mano, non è che c'era la stamperia che ci poteva stampare la colla fatta con la farina, quindi siamo cresciuti con questa cultura dell'attivismo e della militanza, ecco, credo che questo sia uno dei passaggi un po' perduti in chi fa politica oggi. Chi appartiene alla mia generazione magari ha avuto la fortuna, se ha fatto politica prima, di conoscere la militanza, l'attivismo, cosa significa correre, fare le campagne elettorali per gli altri e non solo per se stessi. Noi ne abbiamo fatte tantissime di campagne elettorali per persone mentre noi non eravamo candidati. Oggi si è perso un po' questo valore nella politica di oggi. È cambiata ovviamente la politica, ci sono meno spinte ideologiche, io dico per noi era importante un progetto, una cultura, avevamo i nostri miti, no? Ecco, oggi magari con gli anni il mito era diventato avere lo zainetto in Moncler, no? Quindi diceva, lo cito anche Tiziano Rosani, che conoscete, che incontrai tanti anni fa in un bar, io proprio dicevo sono cambiate, cioè non c'è più ideologia, e lui mi disse no, ma non è che non c'è più ideologia, sono cambiati i riferimenti dell'ideologia, oggi i giovani preferiscono avere lo zainetto firmato, il piumino e via dicendo. Oggi però a me fa piacere, quando parlo con i nostri giovani, riuscire a trasmettere che cosa è significato fare la politica a quel tempo. Non era facile, eravamo sempre visti un po' come i cattivi, certo magari anche noi vedevamo quelli di sinistra come i cattivi, però noi eravamo sempre in maniera infinitesimalmente inferiore, che non ci conveniva nemmeno andare a fare gli aggressori, almeno a una città come Merano o anche come Bolzano. Però ecco, c'era questo spirito anche alla lotta, che poi oggi ovviamente fortunatamente è venuto meno. Però credetemi, allora cioè, i ragazzi di destra così come quelli di sinistra che morivano perché uccisi dagli avversari politici, anzi no, dai nemici politici, perché si erano nemici a quel tempo, erano dei martiri, erano nel paradiso degli eroi, quindi noi siamo cresciuti proprio con questa cultura. Sì, infatti devo essere più breve forse. No, ma mi come dire, ti tengo d'occhio. Come un tempo, no? Ecco, no. Visto che hai toccato il tema dell'ideologia, noi possiamo dire che ci muoviamo adesso in un ambito largamente post-ideologico, però l'appartenenza di destra, soprattutto qua dove diciamo le memorie e dove la storia gioca un ruolo determinante, mi piacerebbe che tu, nel libro c'è però non esplicito, tu non tracci una, come dire, non dedichi una sezione completa a una sorta di fenomenologia della destra storica, fenomenologia storica, per cui diciamo la destra qua ha delle radici ovviamente che affondano nel fascismo, nell'esperienza del fascismo. Il fascismo accenta l'appartenenza di destra in un modo molto, molto, molto forte. Per esempio l'accusa, diciamo, di essere fascisti o post-fascisti, quindi quando si parla di post-fascisti rimane comunque l'aggettivo dentro, è fortemente, fortemente presente nella letteratura polemica. Quello che a me piacerebbe sapere, in modo, se è possibile, in modo conciso, in modo efficace, come tu vedi l'eredità, come tu vivi l'eredità, questa pesante eredità, in un contesto come quello autonomistico che diciamo vede il fascismo come il nemico storico e come diciamo la molla che ha motivato ogni tipo poi di emancipazione successiva. Beh, due o tre precisazioni. È vero che il movimento sociale italiano si è sempre collocato a destra, parliamo del movimento sociale italiano perché solo dopo viene Alleanza Nazionale, si è sempre collocato a destra, ed è vero anche che ha sempre, anzi si è sempre vantato di avere delle radici fasciste. Sì. Però questi schematismi ci hanno sempre un po' fregato, no? Destra, sinistra, centro, perché per certi valori il movimento sociale è sempre stato certamente di destra, ma proprio perché figlio del fascismo il movimento sociale ha incarnato una forte cultura di sinistra al proprio interno. Quando io parlavo per esempio del sostegno che si dava all'organizzazione di liberazione della Palestina, parliamo, torno a ripetere, 77, beh, quello non era certo un valore di destra, era un valore di sinistra, o nell'immaginario collettivo era un valore che veniva incarnato dalla sinistra. Quando nelle periferie di Roma, nelle borgate, la destra vinceva, nelle borgate, non a Piazza Affari, no? Ecco, questo stava a delimitare, a immedesimare il fatto che il movimento sociale italiano comunque riuscisse a interpretare dei valori che vengono considerati di sinistra, un po' come faceva il fascismo, no? Perché io ricordo uno splendido libro di Gianna Came, Il fascismo immenso e rosso, no? Nel quale proprio si raccontava come il fascismo, nascendo peraltro da una persona che aveva una forte cultura socialista come Mussolini, come il fascismo si fosse, avesse rappresentato tanti aspetti della sinistra. Lo stesso movimento sociale italiano, no, tendeva comunque a incarnare una certa socialità, comunque un certo anche socialismo al proprio interno. Quindi noi ci siamo poi sempre schierati a destra, noi oggi siamo un partito che come valori ovviamente si pone a destra, a confronto a una cultura di sinistra che è una cultura dell'assistenzialismo e tutto quello che vogliamo, ma non siamo qui per fare differenza fra destra e sinistra, no? Però rivendicavo anche questa forte presenza di sinistra, no? All'interno della destra, paradossalmente parlando, e anche all'interno di Alleanza Nazionale. La destra come si pone in Alto Adige? Adesso si pone in Alto Adige e si è posta come baluardo dell'italianità, facendo un chiaro riferimento alla necessità che anche i diritti dei cittadini di lingua italiana, italiani di lingua italiana ad Alto Adige, potessero essere rispettati. Ci sono stati gli anni dell'autonomia più difficile, che ricordiamo nasce, così come l'ha sottolineato anche Magnago qualche tempo fa, dagli attentati che costarono molti morti, 17 persone, alcuni civili, ma anche molti militari morti per effetto di quegli attentati. La destra si sviluppa e ricordiamo che contro l'autonomia del 71 ci schierammo in maniera molto palese con l'intervento che Giorgio Almirante, allora segretario nazionale dell'MSI, fece per anni il più lungo nella storia del Parlamento, parlò se non erro per 15-16 ore, no? E parlò proprio contro questa autonomia. E il Movimento Sociale ha continuato su questa strada per tanti anni. Poi si è verificato però un punto importante sul quale in pochi hanno riflettuto, il 1992. Nel 1992 c'è stata la cosiddetta quietanza liberatoria da parte dell'Austria in riferimento all'autonomia altoatesina, ovvero l'Austria riconosceva che l'Italia aveva assolto a tutti gli impegni che erano previsti nello Statuto d'autonomia del 71. Uh-huh. E allora ecco la destra, no, che si interroga, Giorgio Holtzmann, il sottoscritto, Sigismondi e altri, che si interrogano sul ruolo che questo partito deve avere per il futuro, che la destra deve avere per il futuro. Dobbiamo per forza essere sempre contro a tutto, oppure dobbiamo iniziare a ragionare anche su come vogliamo evolvere e sviluppare l'autonomia? E abbiamo iniziato a interrogarci su questo. Successivamente ci fu Fiuggi per noi e quindi l'abbandono della casa del padre per non farvi più ritorno. No, per parentesi, ho visto studiando che nel 93, questo è anche strano, diciamo, visto alla luce degli eventi recenti, strano, insomma, quantomeno singolare, e il cambiamento, questo diciamo processo di abbandono della casa del padre, perlomeno Wikipedia lo attribuisce a un articolo scritto da Storace. Sì. La Storace da Fisichella si creò sul Messaggero di Roma nel 93, sì, si creò sul Messaggero di Roma un dibattito, che è un giornale, un quotidiano di Roma, un dibattito lanciato da Fisichella e Storace. E Fisichella, professore, che poi è stato presidente dell'Assemblea Nazionale di Alleanza Nazionale, nel quale si lanciava proprio una nuova destra, no, per l'Italia. E quindi si inizia a parlare di Alleanza Nazionale nel settembre del 93, no, del 94. Nel settembre del 94 si crea questo contenitore che si chiama Alleanza Nazionale, ma nel quale il Movimento Sociale Italiano ancora non è confluito. Fiuggi 95, no, noi confluiamo in Alleanza Nazionale. Quindi. Però tu, appunto, questo secondo me è un passaggio interessante da tenere a mente, anche io me lo tengo a mente, che nel 92, diciamo, in seguito alla quietanza liberatoria comincia questo momento di riflessione sulle finalità, fondamentalmente, del ruolo della destra. Una cosa, appunto, quindi diciamo l'eredità fascista, per esempio Fini nella Vulgata è sempre quando si parla di Fini e del fascismo generalmente si riferiscono due frasi che poi molto anche banalmente sono state banalizzate, diciamo, come formule giornalistiche sono contraddittorie, no? Da una parte disse che Mussolini era un grande statista, poi però ha parlato... Lo disse nel 94, poi però dopo... Doveva ancora esserci Fiuggi. Ok, però dopo viene detto, no, che il fascismo è il male assoluto. Adesso io non voglio fare un'esegesi di queste due frasi, che però sarebbe anche interessante, però non la voglio, magari la facciamo dopo. Sì, questa è il fascismo male assoluto, io l'ho sempre contestata, nel senso che lui ha parlato delle leggi razziali come male assoluto. Sì. Nel leggere nel suo ufficiale intervento, non quello che fu riportato dai giornali, uh-huh, sul suo intervento ufficiale lui parlò delle leggi razziali come male assoluto e io sono perfettamente d'accordo. Sì, no, fa parentesi, io sempre, non so se sei d'accordo, io interpreto, perché male assoluto, quando uno sente male assoluto dice il male più grande che c'è, questa è un'interpretazione, secondo me non, che non è corretta, anche perché non si possono comparare, cioè l'omicidio... Okay. Lo sterminio di un popolo, l'uccisione di un bambino non sono grandezze comparabili, secondo me, fanno parte dell'orrendo tout court, forse assoluto nel senso che deve essere giudicato da solo, nel senso è male di per sé, cioè quindi la legge razziale è male di per sé, non c'è bisogno di andarla a comparare, uno assume la responsabilità di aver dato origine a questo tipo di processo e dice io indipendentemente dal resto lo condanno. Questo secondo me è un'interpretazione assolutamente nobile, assolutamente, sì, sì, assolutamente condivisa. Tu la condividi? Sì, sì, no, ma cioè qui io dico sempre, non è il numero dei morti e delle vittime che determina la giustezza di un principio o meno. Cioè, il principio o si condanna o non si condanna. Quindi le leggi razziali furono, secondo il mio punto di vista, così come quello di tante altre persone, un omicidio ideologico, insomma, ecco, no? in questo senso, che dovevano giustamente essere condannati. Quindi, per traslato, anche diciamo, l'opera di nazionalizzazione dell'Alto Adige è un errore da condannare. No, quello, dunque, allora, noi dobbiamo partire da un contesto che secondo me è diverso. Innanzitutto fu l'Austria a rinunciare al confine del Brennero. Questo, noi dobbiamo parlare della Prima Guerra Mondiale, in cui ci fu un esercito e un'alleanza che uscì sconfitta e l'Austria fu in qualche maniera costretta a accettare il confine del Brennero. La guerra l'hanno persa loro, parliamo... E poi c'è una ulteriore rivendicazione che fu fatta dopo la Seconda Guerra Mondiale da parte più che dell'Austria, delle popolazioni locali, per cercare di riannettere il territorio altoatesino, ma ci furono degli interessi internazionali che riposero, e poi l'Austria concordò su questo, basta leggere la dichiarazione di Krajiski, che era l'allora cancelliere austriaco, che riassegnarono o mantennero comunque il confine del Brennero come confine nazionale. Ci furono due questioni principali, scusa se mi permetto di rottare un attimo il discorso, ma questo è interessante. Primo, la comunità internazionale dovette ripagare l'Italia, lasciando il confine del Brennero, ripagare l'Italia per le terre perse, Brigatende da una parte, per la Francia, ma anche per le terre Giuliano-Dalmate. E quindi l'Italia aveva già perso queste terre, no? E non si poteva chiedere all'Italia di perdere anche il confine del Brennero. Questo lo ammisero americani, inglesi e altri. La seconda questione, che è una questione di politica internazionale, con la creazione, no, di uno Stato filo-sovietico alle porte dell'Italia, qual era la Jugoslavia, se si fosse ceduto anche il Brennero, vi era il pericolo che l'Italia venisse invasa dai comunisti, perché ricordiamoci che comunque l'Italia nella zona est era allora, no, tutta accerchiata, no, da stati sostanzialmente comunisti. Il fatto di mettere il confine al Brennero rendeva più difficile qualsiasi intrusione comunista in Italia. Se fosse stato arretrato invece, per dire, a Borghetto oppure a Salorno, no, quello allora sarebbe stato molto più semplice. Questo è interessantissimo, puoi andarlo a vedere proprio nelle note storiche, diplomatiche dei vari persone che erano presenti, non so, gli accordi, il Trattato di Parigi e via dicendo. Ci fu una dimostrazione palese di questa intenzione quando nel 62 avvenne la crisi di Cuba, perché è vero che si risolse con una telefonata fra Khrushchev e Kennedy, ma è anche vero che c'erano delle armate ungheresi pronte a scendere per l'Italia, passando però semmai cercando di passare per il Brennero piuttosto che per altre zone. Quindi questo era... Sì, ecco, sì. Allora, tornando alla domanda, no? Ci sono delle cose storiche internazionali di cui non abbiamo nemmeno lontanamente l'idea, no? Io mi riferivo, ma lasciamo l'argomento, magari lo riprendiamo dopo perché è uno dei nodi, mi riferivo più che a quello che dici è... Probabilmente, cioè, il fascismo ha sicuramente no, sbagliato... La nazionalizzazione, sì. Stante il confine, cioè quindi il riconoscimento del confine, l'opera proprio di... si chiama di nazionalizzazione, di snazionalizzazione forzata, diciamo, dell'elemento alloglotto. Sì, ma infatti questo io lo scrivo, no, in qualche passaggio, cioè ci furono degli errori da parte del fascismo, indubbiamente, perché c'era anche una cultura diversa, ma io non è che voglio stare a difendere qui l'operato di Mussolini o di chi altri, non sono uno storico a poterlo fare, cerco di fare il mio meglio, il politico, non so se ci riesco. Però ci furono sicuramente degli errori, no? Questa intenzione di nazionalizzare a tutti i costi questo territorio, così come negare, no, l'uso della propria lingua, costringere la popolazione autoctona a creare le catacombe in sciule e via dicendo, questi sono sicuramente stati, così come fu un torto macroscopico quello di cancellare tutti i toponimi, no, e magari anche i cognomi delle persone di lingua tedesca. Ma aggiungo che è un torto se questo viene fatto oggi da parte tedesca nei confronti della comunità linguistica italiana. Su questo ci arriviamo, perché sì, penso, sì. Anzi, non c'è bisogno neanche che ci arriviamo noi, perché penso, cioè. Allora, lasciamo queste brume storiche, andiamo sulla un pochino un excursus, diciamo, teorico. Tu a un certo punto citi Alain de Benoist e parli di una della possibilità teorica di creare, adesso forzo un po', però di creare un'alleanza tra le destre locali al di là, diciamo, dell'appartenenza linguistica. Qui ti cito dalla conclusione, tu dici: la forte caratterizzazione comunitaria ed identitaria delle destre, il comunitarismo è ovviamente l'orizzonte di pensiero nel quale ti muovi. La forte caratterizzazione comunitaria ed identitaria delle destre può divenire un limite se le destre fra loro si ignorano. Ma non ci può essere lingua che separi le destre europee fra di loro, quella italiana come quella tedesca. Possono esistere culture, usi e costumi diversi, ma la tradizione è unica. Allora, a mio modesto avviso, questo è un passaggio problematico della nostra terra, perché la questione linguistica è proprio invece assolutamente discriminante per misurare l'appartenenza politica. Non solo questo, Alain de Benoist è il teorico praticamente delle comunità omogenee, quindi si riconosce alla comunità omogenea il diritto di sussistenza, deve autodeterminarsi, ogni comunità omogenea deve autodeterminarsi rispetto alle altre. Questo è possibile se esistono territori in cui esistono comunità omogenee. Da noi no, da noi non ci sono, perché noi siamo una terra di confine, e al di là del fatto che siamo una terra di confine, all'interno della nostra provincia convivono gruppi diversi. Allora, com'è possibile fondare la tua proposta politica, la proposta politica di questa destra che si apre alle altre destre, quando non esiste una comunità omogenea? Beh, innanzitutto bisogna chiarirsi cosa si intende per comunità omogenea. Per quanto mi riguarda, comunità omogenea può anche essere omogenea nella tradizione proprio, non nella cultura. Allora, ovviamente con il gruppo linguistico tedesco noi non abbiamo una omogeneità di cultura, proprio perché i nostri riferimenti sono diversi. Però con fattispecie la Volkspartei, ovviamente io mi riferivo alla Volkspartei, sì, quando parlavo di destra, sì, e non certo a destre più estreme. Insomma, questo l'avevo no, ma io, sì, no, infatti tu, ho visto che non hai speculato su questo, mi fa piacere, però ci tenevo comunque a chiarirlo. Però ecco, dicevo, noi abbiamo come destre delle tradizioni e dei valori che sono comuni. Io faccio anche un esempio banalissimo, no, nel libro, a pagina 151, leggo un attimo un passaggio, no? In questo lo si fa in virtù della consapevolezza di assistere, proprio perché destra entrambi, Alleanza Nazionale e la Volkspartei, ad una provenienza comune e forse anche lontana, un ceppo storico assiomaticamente universale. In questo non possono non essere vicine le destre locali di lingua italiana e di lingua tedesca. In tale ottica le destre altoatesine devono potersi parlare e progettare assieme un'attestazione genetica, proprio perché con medesima tradizione, per non tradire la genesi stessa dell'essere destra e alla quale si appartiene. D'altronde, la visione di gruppo che la destra nazionale ha mantenuto nei decenni, e dalla quale io ho fatto riferimento nel libro, dico la visione di gruppo perché? Perché quando noi eravamo ghettizzati come esponenti del Movimento Sociale Italiano e magari anche come esponenti di Alleanza Nazionale, perché ancora oggi sostanzialmente c'è una sottile ghettizzazione o emarginazione, ecco, da parte del potere politico locale, no? Noi ci siamo sempre fatti forte nel chiuderci al riccio, nel vivere nei nostri covi, no? Nelle nostre sedi, nei nostri uffici, quelli che oggi sono i nostri uffici, in una visione di gruppo tutta nostra, certo aperti, ma innanzitutto proteggere, un po' come fanno i gabbiani, no? Proteggere il proprio gruppo. No? Ecco, noi, questa nostra visione di gruppo, per parte di lingua tedesca in Alto Adige si è tradotta con la Sammelpartei, con il partito di raccolta, ma è tipico proprio della tradizione di destra quello di fare gruppo a sé, no? Al di là di quelli che sono poi i valori, torno a ripetere, comuni, Dio, patria, famiglia, eccetera eccetera eccetera, no? E cos'è che io attraverso il concetto del progetto ho inteso promuovere? Certo, sono conscio anch'io del fatto che ci sono poche speranze, tra virgolette, ma innanzitutto bisogna parlarne di queste cose, perché ritengo veramente sciocco che una lingua, in questo caso due lingue, quella italiana e quella tedesca, possano essere un limite, soprattutto quando si hanno dei valori comuni e si hanno anche delle culture, in questo senso sì, politiche comuni, perché io dico, quando si parla di cultura di sinistra si pensa all'assistenzialismo, quando si parla di cultura di destra si pensa magari al sostegno, che è diverso. Il sostegno fa crescere la famiglia, l'assistenzialismo la fa rimanere a pari, no? Quindi non la fa mai emergere da quello che può essere un problema. Però vi sono poi delle caratterizzazioni forti, appunto si diceva prima, la visione di gruppo, che significa la comunità, quindi il valore della comunità, che possono coniugarsi, sia che sia comunità tedesca, di lingua tedesca, sia che sia comunità di lingua italiana. Il ricorso all'identità della persona e del gruppo linguistico e comunque, no, del punto di riferimento. Bisogna imparare a sapere ragionare su questi temi. Noi, come destra italiana, e la Volkspartei come destra di lingua tedesca. Ma bisogna iniziarla a fare proprio per dare uno sviluppo diverso a questa terra, in cui tutti si possano sentire a proprio agio, no? Ecco, si parla tanto di disagio, sicuramente tratteremo dopo questo tema, ma comunque, no? Però si parla tanto di disagio, il disagio esiste quando uno non si sente a proprio agio, no? In una determinata realtà. Io sono convinto che il gruppo italiano non si sente a proprio agio in questa autonomia. Se noi come destra italiana continuiamo a non cercare dei punti di contatto con la destra di lingua tedesca per promuovere anche la possibilità di una nostra gestione all'autonomia dell'Alto Adige, quindi secondo la visione che anche noi possiamo avere dopo la nostra evoluzione dell'autonomia altoatesina, beh, allora certo noi continueremo a creare condizioni di persistente disagio nella comunità linguistica italiana. Perché è ovvio, io di questo non faccio alcuna colpa alla Volkspartei, per dire, perché è ovvio che la Volkspartei pensa al gruppo linguistico tedesco. Lo statuto di autonomia nasce per tutelare il gruppo linguistico tedesco e ladino, non certo quello italiano. Oggi c'è bisogno di questo riequilibrio, ma finché si trova qualcuno, la Volkspartei trova qualcuno che, come si impunta, come battipiedi, la contenta come un bambino viziato, no? È chiaro che si continuerà su questa strada, ma gli italiani, comunque la destra italiana non si può chiamare fuori dalla possibilità di assumersi delle responsabilità nella gestione dell'autonomia, perché così noi non facciamo il ruolo che dovremmo ricoprire come politici e come cittadini, ma facciamo un ruolo di comodo che magari ci dà la possibilità di essere eletti in un consesso piuttosto che un altro, ma che non ci porta a nessuna soluzione per la nostra comunità. Sì. Questo a me sembra un'istanza assolutamente condivisibile. Condivisibile. E proprio per questo metto ancora il dito nella quella che a me sembra la piaga. Io adesso, diciamo, a me interesserebbe, però questo poi forse è più personale, perché si capisce anche in controluce da quello che hai appena detto, per esempio, che tu e quindi la destra italiana, specularmente la destra tedesca, la destra moderata, siete contrari, si è contrari, diciamo, a un... Scusa, la chiamo destra ragionata. Destra ragionata. Perché anche il fatto della destra moderata, no? Dov'è la moderazione? Cioè, per te può essere moderato qualcosa, per gli altri no. No, va bene, no? Dico sempre destra ragionata. Destra ragionata. Allora, destra ragionata, diciamo. Si oppone evidentemente anche a progetti che mirino ad uno smantellamento uno smantellamento è troppo fuori, ad una relativizzazione di Cuba, sì, no, una relativizzazione dell'identità. Io penso appunto ai Verdi, no? Il messaggio storico dei Verdi era quello, era o è ancora, ma è ancora, se un po' come... garantisci tu, ci provo, è ancora con sofferenza quello di testimoniare una possibile integrazione dei gruppi linguistici ed una pratica dell'identità che è dinamica, cioè che non guarda troppo indietro, ma che per esempio valuta positivamente le coppie miste, i figli di coppie miste, il plurilinguismo, l'eclettismo culturale. Da quello che tu dici mi sembra di capire che invece la via che propone la destra ragionata non è... No, non è vero, no. E... Ma se dici non è vero sono... No, cioè all'interno di Alleanza Nazionale, io peraltro sono anche uno di quelli, così come altri, noi riteniamo uno importante che... Cioè io non ho nessuna preclusione ai matrimoni misti, anzitutto, quindi sia molto chiaro. Poi riteniamo comunque importante e fondamentale che ci sia una capacità di poter apprendere e conoscere le altre lingue, no? Perché questo comunque aumenta la cultura di ognuno di noi, oltre che la possibilità di avere un futuro. Poi questa è la realtà in Alto Adige, no? non ci siamo solo noi o solo gli altri, non ci sono solo quelli del gruppo linguistico tedesco oppure solo quelli del gruppo linguistico italiano. È una realtà in continuo movimento. Ovviamente diversifichiamo le nostre opinioni quando si parla magari di scuole miste, perché... Il pericolo della scuola mista è il pericolo di sradicarsi dalla propria cultura nell'insegnamento, cioè per quanto riguarda per esempio scuole elementari oppure scuole medie. Proprio perché ci sono due gruppi molto forti che rappresentano la destra, come la Volkspartei da una parte, Alleanza Nazionale dall'altra, è ovvio che fra i nostri valori ci sono la difesa proprio anche delle radici, no? E quando lì prima parlavamo delle radici culturali, beh, anche queste sono, abbiamo qui davanti a noi, non so se ce ne sono altre, però una insegnante elementare, credo, vero, è ristata Carla, no? Che sa benissimo quale sia l'importanza per un bambino, comunque anche per un ragazzo, poter frequentare le scuole nella propria madrelingua. Questo non può ovviamente essere un limite, perché in ogni caso le scuole devono poter mettere in condizione l'alunno di imparare bene la seconda lingua. Oggi è più difficile trovare un ragazzo di lingua tedesca che conosce l'italiano piuttosto che un ragazzo di lingua italiana che conosce il tedesco. Sì, vai sì. Nelle ballate, se no non Bressanone, vai Valvenosta, per dire. Io ti racconto un caso, no? Vado in un negozio di Merano qualche tempo fa, 3-4 anni fa, negozio del centro che vendeva materiali elettrici, no? Merano, seconda città dell'Alto Adige, no? Entro e dico, mi dà una spina multipla per favore? Adesso spalanca gli occhi. Dico, una spina multipla. Allora, finché non gli ho detto in tedesco, no? Adesso non mi chiedere come si dice perché sennò mi metti in crisi. non aveva capito, ma se vai comunque proprio in tante vallate, no? I ragazzi in lingua tedesca non conoscono più l'italiano. E se invece tu vai nelle maggiori città come Bolzano e Merano è più facile che tu trovi i ragazzi di lingua italiana che conoscono il tedesco. A me questo fa solo piacere, intendiamoci, e io auspico che i miei figli imparino il tedesco. Bisogna creare le condizioni però perché questo avvenga, no? In maniera ottimale. Per quanto riguarda i Verdi, secondo me i Verdi sono il paradosso della storia. I Verdi locali? No, i Verdi. In generale. I Verdi. No? Io mi ricordo quando nacquero, poi che ti lascio la domanda, scusami. Io mi ricordo quando nacquero, loro si erano premoniti di dire noi non siamo né destra né sinistra. Poi, entrati in Parlamento, no, si misero a sinistra. Ma se ci pensiamo bene, culturalmente i verdi, siccome sono conservatori, dovrebbero stare a destra, non a sinistra. Perché il conservatorismo ambientalista, così come tutto il conservatorismo, no, è una cultura, una tradizione di destra, non di sinistra. Questa era... Sì, sono eclettici, i verdi sono eclettici, diciamo. Sono, c'è una forza, ci sono elementi conservatori, ma la definizione classica, secondo me, sono proprio un classico fenomeno, non voglio entrare... Beh, lo stesso Langer fece un'espressione proprio, no, rivendicando il fatto che l'ambientalismo è conservatorismo e protezione dello status quo, quindi di tutta una serie di passaggi che riguardavano certamente l'ambiente, no? Sì, c'è un articolo di Langer che dice quanto sono conservatori verdi e quanto sono verdi conservatori. Un articolo che è interessante andarsi a rivedere. No, ma lasciamo la discussione sui verdi, perché sì, mi interessa molto a me, ma non penso che non penso gli altri. A corpo due domande, così cioè, favoriamo il fluire più veloce del tempo. Chiaramente dobbiamo toccare il tema del disagio, perché è diciamo una specie di, è molto suonato, insomma, nei jukebox politico-giornalistici, certi jukebox politico-giornalistici, è un pezzo che viene suonato molto, ed è un concetto di, anche di difficile definizione sociologica. Io per esempio ne ho discusso molto anche per mail con persone che se ne occupano, diciamo. È di difficile definizione. C'è una versione rozza, grezza del disagio che tu assolutamente non appoggi. E quando hai detto che tu temevo che, no, che tu non appoggi, e quindi questo ancora una volta depone a favore del discorso che è inutile fermarsi al pacchetto, bisogna vedere cosa c'è dentro il pacchetto, no, il pacchetto, la scatola, ovvero quello che l'autonomia ci ha portato via tutto, gli italiani gli ha portato via tutto, c'è stata una sorta di concentrazione del potere nelle mani di poche persone che poi sistematicamente escludono gli altri, e soprattutto ci sono dei meccanismi, tipico quello della proporzionale, che penalizzano la popolazione italiana. Cioè, tu, secondo me, giustamente offri una interpretazione della proporzionale che è quella, diciamo, corretta. Cioè, la proporzionale, fotografando, basandosi sulla fotografia della consistenza dei gruppi linguistici, in effetti tutela tutti i gruppi linguistici. Quindi quelli che, diciamo, urlano, non ragionano, ma urlano, che bisogna abbattere la proporzionale, limitare il bilinguismo, fanno, diciamo, un torto anche alla popolazione italiana. Quindi se, diciamo, il disagio non è promosso da quelle che sono le strutture fondanti dell'autonomia, non è promosso, l'autonomia nasce come progetto di tutela di due gruppi linguistici, no? E non certamente del terzo, no? Perché chiaramente è politica di minoranza, però poi gli effetti si nota che questi meccanismi in realtà offrono possibilità anche agli italiani residenti, non agli italiani non residenti chiaramente, ma agli italiani residenti. Allora il disagio dove tangibilmente, cioè effettivamente, il disagio, dove si misura, dove lo si va a trovare, dove si misura? Ti rispondo in due passaggi. No? Primo, mi piace rivendicare il fatto che Alleanza Nazionale negli ultimi anni ha rivisto la propria posizione proprio sulla proporzionale oppure sul bilinguismo. Dico che mi piace rivendicare questo perché io ricordo, noi come eravamo Movimento Sociale Italiano nell'85 raccogliemmo 25.000 firme proprio per eliminare la proporzionale e l'obbligatorietà del bilinguismo, ma proprio a seguito della quietanza liberatoria, quando la destra, che era ancora Movimento Sociale Italiano, iniziò a interrogarsi, no, sul futuro dell'autonomia altoatesina, noi iniziammo qualche tempo dopo un dibattito tutto nostro interno ad Alleanza Nazionale che durò due anni e mezzo sulla proporzionale e su quale posizione tenere la proporzionale. e comprendemmo, tant'è vero che oggi, come diceva giustamente Gabriele prima, lo sottolineiamo, comprendemmo che la proporzionale oggi è uno strumento di salvaguardia per il gruppo linguistico italiano. Certo, se uno la mette sul discorso della meritocrazia, no? Allora uno dice è ovviamente un sistema discriminato. Però io oggi devo ragionare in termini di tutela del mio gruppo linguistico, ovvero del gruppo linguistico italiano, così come la Foxpartei fa per il gruppo linguistico tedesco. E allora se so che c'è la proporzionale, io so che all'ospedale di Bolzano noi avremmo dei primari di lingua italiana. Spero anche bravi, sicuramente oggi abbiamo dei primari bravi. Ma se non ci fosse la proporzionale, con le nomine che vengono fatte dall'assessore competente, io non metto in discussione l'onestà di Saurer, così a suo tempo, non l'ho mai messa, né quella di Tainer, ma io non so domani chi possa venire, quale assessore può essere alla sanità. E quindi i primari vengono nominati dall'assessore competente provinciale. Io so che X primari dovranno essere del gruppo linguistico italiano, come X medici, come X impiegati nella pubblica amministrazione. E questa è ovviamente una salvaguardia per il gruppo linguistico italiano. La seconda questione il disagio si misura nella sensazione che secondo me è concreta, cioè poi si concretizza effettivamente, che il gruppo linguistico ha di non poter accedere o accedere in maniera inferiore al gruppo linguistico tedesco a determinate opportunità. Ti faccio un esempio, spero di essere abbastanza chiaro su questo perché non è semplice capirlo. Quando la provincia eroga borse di studio agli studenti, la provincia chiede ovviamente i redditi dei genitori, tranne che per quegli studenti che possono in qualche maniera dimostrare di aver lavorato per 3 anni, va bene, e di aver magari preso 10.000 euro, no, di stipendio complessivo. Ora, io ti chiedo, secondo te è più facile che un commerciante, un albergatore o un agricoltore possa far figurare di assumere proprio figlio nella propria azienda, o è più facile che ciò lo possa fare un dipendente pubblico, magari della provincia o del ministero? Ecco, è ovvio, no, che una normativa di questo genere tende in qualche maniera più a preservare, no, la possibilità di accesso alla borsa di studio per il gruppo linguistico tedesco che non per quello italiano. Ma poi ci sono altre, no, situazioni che riguardano proprio i posti di lavoro, eccetera. Però io voglio andare oltre su questo discorso, infatti lo dico nel libro. Noi dobbiamo, come destra altotesina, come destra italiana, come destra nazionale, dobbiamo operare perché si riduca il disagio etnico cosiddetto, no, del gruppo linguistico italiano. Però io per anni continuo a fare una battaglia interna ad Alleanza Nazionale affinché ci si renda conto che al disagio etnico sempre più ormai si affianca un disagio sociale. E ora, se il disagio etnico è una sensazione intima, tu puoi non sentirti disagiato, io mi posso sentire disagiato etnicamente parlando, il disagio sociale colpisce tutta la mia famiglia. Se io sono senza lavoro o non posso accedere a una forma professionale, ne risente mia moglie e i miei 2 figli. Allora ecco che l'ulteriore passo in avanti che la destra, anche altotesina, dovrebbe fare, e che in parte era riuscita a fare proprio negli ultimi tempi, no, è quello di iniziare a parlare anche di un disagio sociale che non colpisce solo l'italiano, ma che sempre più colpisce anche il cittadino di lingua tedesca. Ecco allora l'apertura mentale è il concetto di destra che si unisce comunque col suo passaggio, ma anche all'interno dell'Alto Adige. Se io faccio battaglie che sono a favore anche del gruppo linguistico tedesco, per quanto il gruppo linguistico tedesco possa pensare di diffidare nei miei confronti perché comunque rappresento un partito, no? Quelle battaglie vanno anche a favore di quella persona e di quel gruppo linguistico. Mi è capitato adesso mi sto sbrodolando addosso, mi è capitato di candidare a sindaco di Merano, no, nel 2005. Bene, in quella campagna elettorale io ho avuto modo di incontrare diverse persone del gruppo linguistico tedesco, e in uno dei seggi tipicamente tedeschi di Merano io ottenni il 40% dei voti, no? Quindi voglio dire, mentre prima magari ne avevamo il 10 o il 5%, perché evidentemente si era riusciti a intercettare, no, anche quel disagio sociale che viene vissuto anche dal gruppo linguistico tedesco. E il disagio sociale viene, il disagio sociale del gruppo linguistico tedesco, vengono colpiti i commercianti, gli imprenditori, comunque sia, ma anche ovviamente il cittadino, l'operaio, perché se il commerciante è costretto a chiudere perché magari a Roma un governo sbaglia una politica piuttosto che un'altra, o in provincia non si adotta una politica sociale ottimale, no? Allora poi quell'azienda deve licenziare anche l'operaio, e l'operaio può anche essere di lingua tedesca, non per forza di lingua italiana. Professor, sei stato molto chiaro e per quanto mi riguarda persuasivo. Non è che alla fine mi voterai anche tu? No? Oh, io non disdegno. No, secondo la mia impostazione iniziale non sono tenuto ad escluderlo, diciamo. Comunque, insomma, bisogna lavorarci. Vediamo. No, allora, sempre sul tema, così lo chiudiamo. Sì. Secondo me, cioè, per esempio, io riconosco che il tema del disagio è tutt'altro che banale, che non può essere banalizzato, cioè chi lo fa sbaglia. E anche il tema etnico, chi lo banalizza sbaglia. Per esempio, all'interno, diciamo, dei Verdi si sta discutendo molto questo aspetto, con ritardo ci si è accorti che è stato, diciamo, un aspetto trascurato, e quindi poi alla fine ci si è trovati di fronte a un problema. Un aspetto, secondo me, chiarissimo, che motiva il disagio è derivante dai meccanismi, diciamo, di rappresentanza politica, cioè della rappresentanza della cittadinanza. Che il paradosso fondamentale di questa terra è che abbiamo un fortissimo partito, Sambel Partai, che può allearsi con chi vuole lui, rovesciando i termini numerici del gradimento del gruppo linguistico italiano, che deve essere, secondo l'autonomia funziona se ci sono due gambe, non può funzionare, cioè anche il partito che i tedeschi possono governare da soli. Questo è importante, che non siano della stessa persona. Appunto, cioè, quindi ci vuole. Però loro ovviamente hanno la facoltà, a termini di legge, di scegliersi gli alleati che vogliono, e sistematicamente vanno a scegliere quelli che sono, diciamo, meno eletti dalla popolazione di lingua italiana. Questo crea sicuramente un fortissimo disagio, nel senso, sia ai rappresentanti politici, ma anche io do un voto che poi finisce nella più completa ininfluenza. In questo un po' torniamo anche, diciamo, ci ricolleghiamo al tema principale del tuo libro. È possibile immaginarsi, come è possibile immaginarsi che ciò non avvenga più? Cioè che questa pregiudiziale cada e si vada semplicemente a leggere, ad allearsi con il gruppo più consistente, senza pregiudizi. Ma innanzitutto il problema essenziale è quello, appunto, che c'è la rappresentanza ma non c'è la rappresentatività, no, nel gruppo. Sono due cose diverse, no? Allora, la rappresentanza c'è nella destra, nel centrodestra, oserei dire, no? Perché poi in questo dobbiamo ampliare il discorso, coinvolgere tutte quelle forze politiche che appartengono al centrodestra, al di là adesso dei problemi che sono sorti a livello nazionale, ma comunque, come diceva giustamente Tremonti l'altro giorno da Fazio, l'importante è la fotografia finale che si fa sotto l'albero, no? Prima delle elezioni, che tutta la famiglia sia riunita, no? Quindi uno si può anche litigare, ma poi alla fin fine. Perché oggi ovviamente il centrodestra ha una maggiore rappresentanza del gruppo linguistico italiano, ma ha una minore rappresentatività, proprio perché la Volkspartei sceglie quelli che vuole per governare, nella fattispecie il centro-sinistra. Allora, che fare? Proprio questo è il senso di quello che ho scritto in queste pagine. Uno, la destra, il centrodestra, adesso poi mi richiamo di nuovo alle nostre responsabilità, la destra deve fare la sua parte, la destra italiana. Fare la sua parte non significa non avere la schiena dritta, significa andare avanti con i propri principi, ma anche adottare una politica che ti porti comunque a confrontarti in maniera seria con la controparte politica, quindi con la Volkspartei. Nel momento stesso in cui già una delle due parti, o meglio, tutte e due le parti rinunciano a questo, è chiaro che nessuno dei due farà il primo passo. Io dico, la destra aveva iniziato a fare questo percorso, tant'è vero che poi Giorgio Holtzmann fu nominato vicepresidente del Consiglio provinciale e Giorgio Holtzmann era in quel momento il presidente di Alleanza Nazionale, quindi non una figura di secondo piano. Quindi c'era stato un cammino dal 92 proprio fino a qualche tempo fa, no? Che aveva portato comunque ad avere dei riconoscimenti per la destra altoatesina. Io ricordo quando nell'88 Holtzmann entrò insieme alla truppa di allora, Mitolo, Montali, Benussi, in consiglio provinciale per la prima volta, cioè il Movimento Sociale Italiano era visto proprio in cagnesco, veniva emarginato, ghettizzato, eccetera. Già quando io entrai, questa è la mia terza legislatura, io sono subentrato nel 94 a Pierino Mitolo, che venne eletto in Parlamento, ero stato consigliere comunale fino a quel punto, dall'89 al 94 qui a Bolzano, e io già trovai un clima diverso nei rapporti. Poi c'era certo quelli all'interno della Volkspartei che non ti parlavano. Potrei fare dei nomi, ma non li faccio perché non è. Uno era il capogruppo della Volkspartei di allora e che ci dava sì dei postfascisti ancora. Tant'è vero che io rispondevo: se noi siamo postfascisti, tu sei postnazista, perché tutti siamo post qualche cosa, no? Ovviamente. E oggi i rapporti, però, ecco, a livello personale sono molto migliorati. Allora io credo che è un peccato depauperare questa opportunità. È la politica che deve dare dei segnali, chi fa politica, e si deve avere anche un determinato stile. Io dico nel libro, certo in passato ho urlato anch'io, no? Quando ero più giovane, fine 25-28 anni, no? Urlavo contro tutto e tutti, però questa non è la politica poi dei risultati. È troppo comodo urlare, lanciare degli slogan, no? Che magari fanno effetto e che magari ti fanno raccogliere dei voti personali, ma che poi non ti portano da nessuna parte, no? Perché comunque sia questo tuo modo di agire ti porta a essere emarginato. Noi non dobbiamo andare chiaramente a chiedere l'elemosina alla Volkspartei, però dobbiamo avere la responsabilità di creare delle condizioni per un dialogo creativo. No? E questo è lo sforzo che deve fare il centrodestra e, per quanto mi consta, anche la destra. Senza questi passi qui, gli italiani continueranno a non essere rappresentativi, perché la Volkspartei continuerà a scegliersi sulla base della propria decisione chi possono essere i partner di giunta. Siamo riusciti a bloccare una legge elettorale, adesso poi non voglio scendere in particolare perché sennò sembra uno spot elettorale, quindi non va e lascio perdere. Però in politica bisogna essere... bisogna fare degli sforzi. Ecco, io riporto una frase del Dalai Lama, no? All'inizio di questo libro, che dice: ci sono state in passato persone che hanno cambiato le cose non perché si aspettavano un risultato immediato dal loro agire, ma perché avevano un progetto. Ecco, la destra, no? Con i suoi uomini deve rivendicare un progetto, che è quello di garantire la rappresentatività al gruppo linguistico italiano nelle istituzioni, no? E quindi anche nella gestione poi dell'autonomia, non pensando di raccogliere oggi quei risultati, perché quando 15 anni fa con Holtzmann iniziamo questo tipo di percorso non pensavamo di raccogliere allora, pensavamo comunque che prima o poi si potevano raccogliere, e ancora oggi noi dobbiamo andare avanti per questa strada, perché comunque abbiamo un progetto, come detto. E ricordiamoci ancora una frase, questa volta di Nietzsche, che io faccio spesso mia, che ciò che vi è di bello in un uomo è che egli è un ponte e non uno scopo. Noi serviamo come rappresentanti politici, a trasmettere al futuro, no, determinati valori, ma anche questo progetto ai nostri giovani, alle giovani generazioni. Non possiamo pensare noi di voler raccogliere qualche cosa, ma lo dobbiamo fare nell'interesse proprio di chi viene domani. E credo che questo sia un impegno molto più difficile sotto certi aspetti, perché potrebbe costare anche la rielezione, no, di qualche elemento, o magari anche la perdita di voti da parte di un partito. Però se la politica si deve riassumere nella elezione certa personale, o comunque nella conferma dei voti di lista, beh, allora non è più politica, ma è un mondo di affaristi. E questo comunque non è il mio concetto, no, non è neanche quello di altri. Beh, io... Secondo me abbiamo fatto un periplo abbastanza esaustivo riguardo ai temi del libro, per cui io ti ringrazio. Direi che la nostra parte, la prima parte, diciamo, l'abbiamo eseguita, e io ringrazio adesso, voi. E adesso passiamo la parola, diciamo, alla folta platea. Se no continuo io con altri 18 domande. Siamo al viaggio, che è sempre difficile, però visto che vuoi continuare tu, la domanda la faccio al giornalista di tutti. Io non sono il protagonista, io posso... Lo so, ma intanto... Coprotagonista. Quando lui è venuto ad abitare a Bolzano, nel tuo Adige a Bressanone... Io? Sì. Uh-huh. E per 4 anni non ha potuto votare. Si è sentito a disagio? O a proprio agio. Sono sentito a disagio. Sì. Fermola. E come ha messo la corda di fronte alla Costituzione italiana? Questa legge, questa disposizione di legge vigente in attuale di fronte alla Costituzione italiana. Seconda cosa, l'introduzione del pacchetto è stato uno strumento che doveva tutelare. Salvaguardare il gruppo etnico tedesco dall'estinzione, dal totale assorbimento. Dalla sua introduzione gli italiani da 150.000 sono scesi a meno di 100.000. Questo lo mette a disagio o lo lascia indifferente? Fine. Rispondo. Allora, primo, sui 4 anni... Visto che è stato toccato tutto il tema del disagio... Sì, sì, ma... Mi trovo a mio agio nel tema del disagio. Allora, no, io ero incazzato quando io vengo da una regione in cui tutti mettono becco, tutti vogliono, la prima cosa che uno fa è si candida per il consiglio comunale e dice io non voglio sentire distinzioni, io valgo per quel che sono, non voglio sentire rosso, verde, bianco, io voglio... Qui chiaramente di fronte a questa clausola ho capito che mi trovavo in una situazione particolare, diciamo che non era trasferibile in altri contesti. O molto modestamente, perché quando sono arrivato conoscevo pochissimo il territorio, figuriamoci che io vengo da una regione dove chiunque parli, vengo da Bolzano, ho capito, sei del Trentino, cioè, quindi si fa addirittura confusione tra l'Alto Adige, l'Alto Adige non è neanche considerato... A scuola mai sentito parlare del problema delle minoranze, ignoranza totale, proprio la mia era un'ignoranza quasi ributtante. E mi sono messo a studiare, ho cominciato a leggere dei testi e ho capito che per esempio questa norma è stata introdotta in un periodo nel quale è stata, diciamo, incubata, poi ha trovato espressione statutaria, in un periodo in cui il pericolo dell'assimilazione poteva avere una valenza. Secondo me, risposta, diciamo, secca, adesso questa cosa non ha più nessuna ragione di esistere e dovrebbe essere abolita, questo semplicemente. E per quanto riguarda la seconda domanda... Adesso sarò io a proporti di candidare con noi, perché stai... No, io penso che su questo ci sia... Io infatti. Conosco tantissimi miei amici di lingua tedesca, su questo sfondiamo porte aperte. Per quanto riguarda la diminuzione del gruppo linguistico italiano, qui ci sono delle interessanti interessanti analisi, per esempio, del, io cito sempre un saggetto del mio amico, che è mio amico, dello Sbarba, il quale ha scritto nel libro, quello ultimo, Toscano anche lui, però di Pisa. Quindi siamo, come dire, non c'è nessuna simpatia, nessuna simpatia, diciamo, etnica, perché lui viene da Volterra, io vengo da Livorno, universi remotissimi. Nonostante sia pisano e sia un toscano di monte, e ha scritto nel libro Il Calicanto di Magnago, mi sembra sia la convivenza asimmetrica, nel quale lui analizza con intelligenza questo fenomeno dello spolpamento del contingente italiano. E dice, citando numeri, che gli italiani fondamentalmente sono un gruppo che, al pari delle altre comunità, al pari degli italiani che vivono altrove, si spostano, sono più mobili, perché sono l'espressione di una cultura urbana, perché magari provengono anche da famiglie che non sono radicate qui, e quindi hanno più questo ambito, questa ambizione a spostarsi, mentre i tedeschi sono radicati. Quindi, diciamo, sicuramente è vero che le opportunità per il gruppo linguistico italiano sono sensibilmente inferiori rispetto al gruppo linguistico italiano. Però questo è un portato, diciamo, proprio della storia locale. Cioè, io non vedrei tanto. Cioè, non tendo ad interpretare questo come una sorta di complotto voluto dalla SVP o da chi detiene il potere di questa provincia per prosciugare il territorio degli italiani, quanto piuttosto un fenomeno che ha radici sociologiche estremamente, estremamente diversificate. Posso aggiungere una cosa? Sono convinto anch'io del fatto che non ci sia un complotto, no, dietro questo. La cattiveria. Il problema è chi permette che ciò avvenga, capisci? Cioè, dicevo io prima, la Volkspartei, è ovvio, ragiona in difesa e tutela del proprio gruppo linguistico e del ladini, no? Quindi c'era un amico mio che non c'è più, che diceva sempre: Mauro, sai perché non c'è il mare in Alto Adige? No, perché le SVP non l'ha ancora chiesto, no? Questo per dire che se alla Volkspartei, tu governo nazionale, no? Permetti, e non sto facendo polemiche di nessun genere, però tu permetti, come è stato permesso per tantissimi anni, di ottenere ciò che chiedi, no? La colpa non è della Volkspartei, la colpa è dei governi nazionali che concede. Cioè, su questo dobbiamo essere onesti fino in fondo. Poi io mi posso arrabbiare perché interpreto arrogante l'atteggiamento di Durvalder o della Volkspartei o di quel candidato rappresentante della Volkspartei. Però siamo certi che noi non ci comporteremmo nella stessa maniera qualora noi avessimo un partito del 60% o del 55% in cui potremmo fare tutto quello che vogliamo, perché tanto ci viene concesso tutto? Capito quello che intendo dire? Sei soddisfatto? Un po'. Signore, che baffo. Mi interrompo nel ragionamento, dai 150.000 ai 100.000. No, io ho detto che gli italiani si muovono. Si muovono e quindi c'è una. Io tendo a pensare che sia. No, io non mi preoccupo, diciamo, io ho uno scarso spirito nazionale, molto scarso spirito nazionale, nel senso che gli italiani in quanto tali non mi interessano. Mi interessa che qua si stia bene, che stiano bene tutti quelli che sono qua, ma non tanto in quanto italiano o in quanto tedesco. Mi interessa che ci siano delle condizioni di vivibilità che più o meno, diciamo, il gruppo linguistico in astratto, io non penso neanche mai, non penso proprio per categorie, diciamo, di gruppi, non ci riesco, non ce la faccio, neanche quando, nonostante viva qui da 9 anni e dovrei essermi abituato, non ce la faccio. Per me questa terra avrebbe delle possibilità straordinarie di benessere culturale, secondo me è un passo dall'ottenerle, e tutti noi dobbiamo cercare di, quindi saltando le barricate, di inventarci quelle correzioni che sono indispensabili per rendere questa cosa possibile. Secondo me ce la possiamo ancora fare, insomma, per cui non sono lì, diciamo, a piangere sul fatto che che, e non vedo, diciamo, la Todes Marsh degli italiani, questo non mi sento di poterlo escludere. Io incontro continuamente persone che vengono dall'Italia, per esempio adesso io lavoro un po' insieme all'università e c'è un afflusso di persone che vengono dall'Italia e trovano stimolante il fatto che qui ci sia un'università trilingue, eccetera eccetera, a Bressanone perlomeno, insomma. Quindi non sono molto preoccupato ancora. Chi è che voleva? C'era un signore lì con gli i baffi. Gli italiani si muovono, cioè poi vanno via, dovrebbero anche arrivare. Ma non ne arrivano. Visto che sono stati 60 milioni. Ne arriva. Così non è. E poi non ci sono neanche, non esistono le condizioni perché un italiano possa venire a vivere in Italia. Luca, vengono con casa, lavoro. Non dall'Italia, dal resto d'Italia. Dal resto d'Italia? Non dall'Italia. Dal resto d'Italia. Anche qui Italia. Io adesso vivo in Toscana da 5 anni, ma comunque vengo dal resto d'Italia. Dal resto d'Italia? Sì. Lei voleva intervenire prima? Quello con i baffi. Il signore, non so il nome. C'era qualcuno che voleva intervenire, che si è ritratto nel guscio? Allora, io volevo chiedere una cosa a Mauro. Bello il progetto, io facevo parte a Destra Urlata fino a prima di leggere il tuo libro, cioè prima di discutere del tuo libro, perché ne abbiamo discusso insieme. Il progetto è ottimo. È stato uno dei correttori di bozze. È stato uno dei correttori delle bozze, quindi sono stato uno dei primi a leggerlo. Ho approfondito il tema. Il progetto, ripeto, è ottimo, ma come la mettiamo con il partito che abbiamo qui in Alto Adige, che è di una destra urlata, che è tornato indietro di 25 anni? Perché io, tu forse l'hai detto, non l'hai detto per rispetto di Luca, ma uno dei primi partiti interetnici in Alto Adige è stato proprio il Movimento Sociale Italiano. Nel 77, Fronte della Gioventù di Merano, su 100 iscritti giovani, il 70% era di madrelingua tedesca. Non solo, facciamo anche i volantini bilingui. Poi c'è stata la svolta nazionalista di Mitolo, voluta da Mitolo e dal partito, da chi governava all'epoca, e adesso il partito è tornato indietro di 25 anni. Come vogliamo procedere per arrivare a questo progetto di unione delle destre, centrodestra diciamo tedesco, SVP e centrodestra italiano, Alleanza Nazionale, perché Alleanza Nazionale non si può più dire un partito di destra, ma diciamo un partito di destra-centro. Beh, a te pare è la domanda più difficile, ma la deve fare mio fratello, che ti conosce di più. Adesso che ti frequenterò di più, vedrai che verrai nella sede, farai un po' di attivismo, la militanza. Ovvio che nel nostro partito, questo libro nasce proprio in quei giorni in cui il nostro partito ebbe il ricambio alla guida, no? Holtzmann fu commissariato da Presidente Fini perché Holtzmann era diventato incompatibile per tutta una serie di cariche che aveva e doveva essere quindi alla base praticamente di una discussione interna al nostro partito proprio per il futuro della destra in Alto Adige, per quello doveva intitolarsi La destra che vorrei, no? Perché doveva essere la trasmissione all'esterno di quello che io intendevo e che io intendo per la destra in Alto Adige. Io credo che nelle battaglie non bisogna mai rinunciare di fronte anche ai momenti più difficili. Se noi lo avessimo fatto non saremmo rimasti in questo partito, probabilmente non avremmo nemmeno mai scelto quest'area politica, perché quando nel 77 sia tu che io abbiamo scelto il Movimento Sociale Italiano, probabilmente perché avevamo la sindrome della sconfitta che ci piaceva, no? Che stare a destra certamente non ti portava alla vittoria, insomma, no? Però io dico sempre che a volte i momenti avversi sono quelli che ci fanno crescere di più come uomini. Quando noi abbiamo perso il congresso allo Sheraton l'anno scorso, io mi ritrovo, cioè quest'anno ancora, sembra ormai una vita, in realtà è ancora solo febbraio, no, io dichiarai, si cresce anche, si diventa uomini anche con le sconfitte. Secondo me all'interno oggi di Alleanza Nazionale ci sono gli spazi comunque per un dibattito e c'è lo spazio perché tutti possano crescere, no, politicamente come devono crescere. Quindi per quanto mi riguarda, io così come altre persone che credono in questo progetto continueranno su questa linea, ma questo non significa rinunciare comunque, no, a una prospettiva futura, perché questa è la strada giusta. Noi abbiamo dimostrato più di un'occasione di non piegare la schiena, abbiamo dimostrato in più di un'occasione di fare delle battaglie anche quando queste battaglie ci avrebbero potuto allontanare dalla Volkspartei. Voglio ricordare per esempio che nel 2002, l'anno prima delle elezioni provinciali, che avrebbero potuto portare Alleanza Nazionale forse ad avere un rapporto diverso con la Volkspartei, con Holzmann facemmo il referendum su Piazza della Vittoria, perché comunque secondo noi era importante fare quel referendum per riaffermare un principio che era quello di salvaguardia, no, di una piazza come poteva essere Piazza della Vittoria. E quindi la destra è questa, così come anche la sinistra. Cioè, la destra è un insieme di principi, di battaglie in cui si crede e che devono essere portate avanti. Io credo in questo tipo di impostazione, ovvero non urlare, cercare di ragionare, portare comunque la gente sul ragionamento. È la strada più difficile, ma proprio perché abbiamo scelto di stare a destra, no, non per forza deve essere quella che prima o poi ti porta alla sconfitta, anzi, sono le cose più difficili, sono quelle più belle. Vi ho annoiato troppo? No, no. Ma via, l'ultima domanda, dai. Allora io chiedo questo. Mi è piaciuto la sua proposta, il suo ragionamento di una collaborazione fra due destre moderate che giustamente dovrebbero insieme progettare un futuro comune volto al maggiore benessere. Ora le chiedo, immagino che esista una destra moderata di lingua tedesca, suppongo. Non lo so perché non lo so, supponiamo. Io la considero la Volkspartei, volendo. Ah, ecco. Supponiamo che questa destra esista, vorrei sapere che opinione esprime, dovrebbe esprimere un'opinione, riguardo al recente episodio da gossip quasi di questi cartelli che vengono affissi ovunque, al Brennero, in tutti i sentieri che valicano il confine, non ho capito se dalla parte italiana, dalla parte tedesca, i morti della gendarmeria, poi rimessi. Però è uno. No, oggi hanno detto che si sono molti. C'è il progetto. Allora dico, io questo cartello l'ho visto anche in Piazza Gries quando sono ritornata dalle vacanze. Come manifesta, sì. Sono rimasta piuttosto, diciamo, meravigliata. Allora dico, che opinione viene espressa? Cioè, questo cartello è una idea così personale, come io potrei dire I like Coca-Cola, vado al passo del Brennero e metto il cartello I like Coca-Cola, perché è la mia idea personale, oppure ha un valore politico? Se ha un valore politico, c'è un silenzio piuttosto raggelante, o questa destra moderata con la quale vorremmo aprire un dialogo? Ma allora, scusi, io anziché I like Coca-Cola scriverei mi piace il chinotto, per questioni autarchiche era battuta. No, innanzitutto i manifesti e i cartelli sono stati posizionati da una destra estrema, perché è la Klotz che li ha messi questi manifesti. Quello che mi preoccupa maggiormente è che quando l'onorevole Holzmann proprio di recente ha chiesto al ministro degli esteri Massimo D'Alema un incontro più volte richiesto, proprio sulla questione di questi cartelli e di elevare protesta al governo austriaco, dapprima D'Alema lo ha fatto attendere per 2 settimane senza nemmeno fargli avere una risposta. Poi quando Holzmann lo ha fermato alla Camera dicendo: senti, io ti ho mandato più di una volta una richiesta di potermi parlare perché ti volevo parlare di questi cartelli, eccetera, ma quali sono i nostri rapporti con l'Austria? Beh, il ministro degli esteri italiano ha detto: con l'Austria va tutto bene, no? Siamo in perfetta unione. Ecco, questa, no, è l'espressione che il ministro degli esteri italiani, Massimo D'Alema, ha utilizzato in relazione ai nostri rapporti con l'Austria. Per me sono comunque da condannare quei cartelli, ed è da condannare anche il fatto che l'Austria abbia accettato che venissero installati, perché ovviamente è uno sgarbo anche diplomatico, no? Se vogliamo. Sì, ma la frase quindi... di Robert Volkspartei, che cosa dice di queste cartelle? Tace. Tace. Non ha nessun tipo... Ostilità. Sì, perché... Ride. Ma è o no un segno di ostilità? Io sì. Voglio capire se interpreto i fatti in maniera ostilità. Corretta o no. È un segno di palese come ostilità. Come italiano, vedendomi questo cartello, pur non apprezzando il mio paese al massimo per moltissimi motivi, ciò non toglie che istintivamente me ne venga un senso di anche un po' avvilimento profondo. Dico, ma perché succede ancora? Cioè, perché è lecito in sintesi che una persona percepisca uno stipendio che immagino superiore alla mia pensione per fare delle cose del genere? Io perché questo, perché questa è la torna ripeto, la politica che io contesto e che ho da condannare, cioè che non è la politica urlata quella che ti porta da nessuna parte. Ora la Cloz che ha messo questi manifesti è alla ricerca di voti, no? Di visibilità, di voti, perché ovviamente anche lei è uscita da un congresso sconfitta, è uscita dal partito che aveva creato, l'Union für Südtirol, ha creato questa sua nuova realtà, e anche per lei ci sono le elezioni fra un anno, no? E quindi cerca di sottrarre temi che potevano essere dell'Union für Südtirol piuttosto che dei Freiheitlichen, e quindi sta cercando. Poi è un modo che può anche essere disprezzato, no, di fare politica, io non lo apprezzo assolutamente, però purtroppo c'è chi fa politica in questa maniera. Quindi, però sanzioni dal... non ce ne sono. No, però è il governo nazionale che si dovrebbe muovere in questo senso, non, è, non può essere la provincia. Locale, però, ma no, non può essere la provincia. È ma il no. partito è assolutamente locale, no? No, ma però non c'è nessuna normativa nazionale che impone alla provincia di intervenire nei confronti. Quando addirittura la Cloz anni fa fece quei manifesti in cui lo Stato italiano veniva rappresentato come un cesso, un vero e proprio sì. cesso, no? Adesso non è che una brutta parola davanti al Signore, o... no? È stato però fatto tirole, un processo. Un cesso tirolese, sì. È stato fatto un processo. Un processo. E la Cloz è stata assolta, no? Da vilipendio, dall'accusa di. Sostanzialmente, che significa? Che a livello nazionale noi non abbiamo delle misure capaci, ma non per colpa dei governi locali, capaci di intervenire su questo. Le faccio un altro esempio. Tutti parliamo di toponomastica bilingue, no? O di odonomastica, che è quella della città, no? Dei cittadini. Però se un qualsiasi ente pubblico adottasse il toponimo solo nella lingua tedesca, come a volte avviene, quella persona non può essere né condannata né sanzionata in niente, perché non è previsto, no, che ci sia una sanzione per chi in qualche maniera viene meno a quelle che sono le normative in materia di toponomastica. Cioè io non la posso sanzionare. Mm. Capito? Signora Failla. Volevo sottolineare un aspetto. Quando si è presentato Di Luca come moderatore... Vabbè. Adesso me l'ha fatto venire in mente appunto la signora che ha fatto la domanda di questi cartelli della Cloz, ho pensato alla Cloz e allora ho pensato all'autodeterminazione, no? Tu mi sai, no, che Gabriele Luca, oltre a quello che ha detto di se stesso, porta avanti un progetto su una piattaforma in internet anche dell'autodeterminazione, no? Ecco, quindi si avvicina in qualche maniera un po' ai progetti che ha anche la Eva Cloz. No. Gli faremo cambiare idea. E io voglio sapere se sei al corrente chiaramente di questa cosa, no? No, beh, io a parte che non mi infastidisce il fatto, se anche Gabriele Di Luca avesse questa posizione non mi infastidisce, sono talmente democratico che rispetto le posizioni di chiunque, così come gli altri rispettano, intendiamoci. Io ovviamente sono contrario, perché ritengo che l'autodeterminazione sia un principio per i popoli, siccome gli altoatesini di lingua tedesca non sono comunque un popolo, ma all'autodeterminazione peraltro ha rinunciato le diplomazie di tutta Europa, torno a ripetere, già nel 19 e poi ancora nel 45, quindi non è che... Io devo fare una precisazione, sì, perché io sono quanto di più distante ci possa essere rispetto all'impostazione della Cloz, nonostante il termine possa trarre in inganno. L'autodeterminazione o autodecisione, io lo chiamo autogoverno, Cioè, quello che a me piace, quello che a me piace è un processo di costituzione di una identità locale transetnica o post-etnica, che poi deve, per potersi, secondo me, a mio avviso, per potersi esplicare, deve rinunciare alla, al legame con lo Stato, altrimenti non è possibile che si materializzi. Questo è il mio discorso personale, ma ovviamente si tratta di costruire una società che dovrebbe diventare completamente post-etnica, cioè in cui per esempio non esiste più il partito di raccolta dei tedeschi, il partito di raccolta degli italiani, esistono diverse posizioni che si affrontano. Con io sono dell'avviso che quello che frega gli italiani è il legame con lo Stato, perché più si accentua il legame con lo Stato e più la minoranza dice: noi siamo una povera minoranza, siamo una povera minoranza che deve essere tutelata e non possiamo aprirvi le porte, perché noi siamo 300.000 persone in uno Stato di 56-58 milioni di persone. Allora, se questi 58 milioni di persone non ci fossero più, questa povera minoranza non sarebbe più una povera minoranza. Secondo me è fuori da qualsiasi possibilità giuridica, diplomatica, di politica internazionale, proprio perché è un diritto dei popoli, torno a ripetere. Poi in politica, sai, tutto è sempre possibile, no? Ma quello che diceva lui... Io non penso al popolo sudtirolese, eh. Io non faccio mai no, discorso vabbè, però quando si parla di autodeterminazione, quando si parla di autodeterminazione, l'autodeterminazione per natura giuridica è un diritto riservato ai popoli, ai palestinesi. Chiamiamolo autogoverno. E l'autogoverno già ce l'hanno sostanzialmente, perché c'è un'autonomia, c'è un'autonomia, ma, noi no. Ma è per quello che noi non ci dobbiamo chiamare fuori. Il Granducato di Livorno. È per quello. Il Granducato di Toscana. È per quello che manca noi, il Granduca, ma. Che noi non ci dobbiamo chiamare fuori, no? Perché qui c'è un l'autogoverno, no? Che però porta vantaggi più da una parte piuttosto che anche dall'altra, no? E che noi dobbiamo cercare di riequilibrare. Quindi, però, quando provocatoriamente qualche tempo fa io ho lanciato l'idea, iniziamo a discutere all'interno anche di Alleanza Nazionale se è il caso di valutare di fare due regioni autonome, una dell'Alto Adige e l'altra del Trentino, no? Slegando queste due realtà, no? Questo che significato aveva? Ha significato che nel momento stesso in cui vi è una regione dell'Alto Adige, vi è una nuova minoranza, che è quella italiana, che deve essere tutelata. Tant'è vero che mentre la Volkspartei fino a qualche anno fa, no, rivendicava un regionalismo spinto, no, adesso non lo vuole più, perché sa benissimo che questo può comportare, no, il fatto di dover individuare nuove tutele, forme di tutela anche per il gruppo linguistico italiano. Bene, se non ci sono altri desideri, noi chiuderemo qui. Ringraziamo. Ringrazio Gabriele, ringrazio voi. Grazie. Eccoci, questo te lo ridò. Sì. Magari se Mauro me ne dà uno firmato. Sì, certo. Qua c'è una cosa. Grazie, questo grazie, è la grazie. Il ricordo di questo. Ma insomma, lui non ha fatto niente. Perché è passato così, siccome ho presentato la uso per questo libro, perché dico che oggi noi siamo per come si sono comportati in passato e il futuro sarà per come siamo nel presente. Ti ringrazio. No, no. Grazie a te invece di tutto. Perché eri una firma, almeno adesso. Anzi, una volta tu hai. mi ha mandato una lettera su quando io scrissi quella cosa, te lo dico, sulla cosa del Brennero, le manifestazioni del Brennero dell'11 di novembre, mi mandaste una lettera in cui già